9F. Ascolta e trasforma. Conosco molti studenti. Conosciamo molti studenti. Conosco persone famose. Conosciamo persone famose. Conosco tutti qui. Conosciamo tutti qui. Conosco bene questo quartiere. Conosciamo bene questo quartiere. Conosco questa città come le mie tasche. Conosciamo questa città come le nostre tasche. Conosco bene questo paese. Conosciamo bene questo paese.